sul tetto del mondo aspettando che passi. Vicino a mare di sogni, tiro dei sassi. Sospiro e respiro, sai che non ricordo i miei passi. Ora mi inchino e sorrido, ringrazio gli applausi. La merda che ho visto mi rende più grande degli altri. Sono attratto dai pensieri che penso a tratti. Cerco contatti di accontentarti, di come imparare a comportarmi. Compro emozioni, non so contenermi. Non so contenermi, eh. Fumo le canne in mezzo alle campane. Non lieto fine in queste finte fiabe. Bruciano lenti sti palazzi Haller. Abituato, non mi fai più male. Aspetto solo in mezzo alle scale. Bruciamo lenti ma il tempo qui scade. Oh madame, vuoi sapere come va? Buio come sta città. Oh madame, sai che io non ho pietà. Brucio come Notre Dame. Guardo la city, è bella da sopra. Chissà com'è, quella gente mi odia. Ho un nodo stretto, si trova alla gola. Suono le campane tirando la corda. Pure se spesso sai che sbaglio ora. Sai bene, la gente muore da sola. Spesso sospetto di tutti quanti. È sottointeso, non puoi sorpassarmi. Sorpresa, sospiro, sono dei palazzi, eh. Ho visto la droga, la morte e le armi. Ho vinto un milione ma perso miliardi. Il tempo non torna, è troppo tardi. Fumo le canne in mezzo alle campane. Non lieto fine in queste finte fiabe. Bruciano lenti sti palazzi Haller. Abituato, non mi fai più male. Aspetto solo in mezzo alle scale. Bruciamo lenti ma il tempo qui scade. Oh madame, sapere come va, buio come sta città. Oh madame, sai che io non ho pietà. Brucio come Notre Dame. Guardo la city, è bella da sopra. Chissà com'è, qua la gente mi odia. Ho un nodo stretto, si trova alla gola. Suono le campane tirando la corda. Pure se spesso sai che sbaglio ora. Sai bene, la gente muore da sola. Oh madame, vuoi sapere come va? Buio come sta città. Oh madame, sai che io non ho pietà. Brucio come Notre Dame. Notre Dame, Nema Ezza, Radio Tagadà. Sono le 18:37, questo pezzo esce come singolo nel 2019. Come già detto, allora torniamo in diretta, c'è qui anche una compagna con cui parleremo di cosa sta accadendo un po' in città e di cosa in realtà vogliono provare a fare a Milano e nei quartieri che abitiamo e attraversiamo. Come aggiornamento abbiamo detto anche che parlavamo degli sgomberi. Proviamo a fare questo intervento perché è questa, tra virgolette, intervista chiacchierata, perché appunto questa settimana in Ticinese c'è stato l'ennesimo sgombero di una casa occupata, quindi un'altra volta si sono presentate ancora Digos, camionette degli sbirri, Haller per chiudere un appartamento. Però quello che ci interessava anche approfondire era, oltre al fatto di cercare, insomma, sì, di far uscire le notizie degli sgomberi che avvengono, e avvengono di sicuro con una certa continuità ormai dall'anno scorso, nel quartiere di Ticinese, nel quartiere di Corvetto, dove sono maggiormente presenti compagni e compagne, ma anche logicamente in altri quartieri dove abbiamo un po' meno ganci, quali Quarto Giaro, San Siro, eccetera. Cosa c'è dietro a tutta questa fretta nel voler e dover sgomberare gli alloggi occupati? Allora diamo il benvenuto alla compagna. Ciao, ciao a tutti. Ci senti? Ciao. Sì, vi sento. Io ti sento, fammi vedere se funziona. Sentiamoci. Il microfono. Ok, ok. Sentiamoci. Ti senti? Va bene. Speriamo che ti sentano bene. Allora, vabbè, sì, hai citato questo sgombero in Ticinese, lo specifico in via Giosuè Borsi, che è in un triangolo di vie dentro un posto già gentrificato, che sono i Navigli. Poi appunto, come veniva detto poco fa, non si sanno tutti gli sgomberi che avvengono settimanalmente, ma sicuramente ne avvengono settimanalmente in tutta Milano, anche solo per fare un esempio, quando si chiama il deposito di Aller per recuperare le proprie cose sgomberate, quelli hanno gli interventi da fare, quindi sono occupati. E, purtroppo appunto non si hanno informazioni specifiche su tutto, ma quello che diciamo dà corpo alla questione degli sgomberi invece si conosce. Il patrimonio pubblico gestito dalla regione o dal comune è in generale sotto sgombero per quanto riguarda le occupazioni che vengono, gli abusivi. Da quando è finito il lockdown sono ricominciati con una certa intensità, in alcuni quartieri ne vengono fatti anche più di uno alla settimana. E poi per ogni quartiere il significato dello sgombero, al di là di quello materiale, di riprendere in possesso la casa, può cambiare a seconda del progetto che riguarda il singolo quartiere o la zona. Per quanto riguarda il citato ticinese, quindi le vie Gola, Picchi e Borsi, stanno dentro un progetto firmato nel 2019 da Regione, Comune, Questura, eccetera, eccetera, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, oggi Mobilità Sostenibili, Cassa Depositi e Prestiti, che per chi non la conoscesse è un grande agente, diciamo anche immobiliare, ma non solo, ha interessi in tante cose, dalla guerra, cioè dalla produzione di armi a investimenti bancari, comunque un grande investitore. Senza tirare una pezza su Cassa Depositi e Prestiti, diciamo che hanno tanti soldi e li spendono con certezza. Anche se dovremmo farlo, e prima o poi faremo forse una puntata solo su Cassa Depositi e Prestiti, perché sarebbe molto interessante. Questo piano appunto non riguarda solo le tre vie Gola, Picchi, Borsi, ma anche via Bolla, che sta nel quartiere Galaratese a nord di Milano, e prevede, cioè l'obiettivo di questo piano è sostanzialmente lo svuotamento integrale del patrimonio immobiliare pubblico di competenza e la riqualificazione del corpo abitanti. Questo comprende anche gli assegnatari, semplicemente non verranno sgomberati ma verranno riassegnati. Faccio una postilla su via Bolla perché il processo là è più avanzato, gli assegnatari sono già stati spostati altrove, ci sono gli sgomberi, e una parte degli stabili verrà abbattuta e un'altra riqualificata nei termini diciamo strutturali, gli appartamenti verranno ristrutturati. E appunto poi per i nuovi ingressi non è detto niente, perché Cassa Depositi e Prestiti ci ha tenuto a specificare che il cronoprogramma del suo intervento non è soggetto al vincolo di pubblicità, quindi non si può sapere niente se non gli effetti di, cioè quando si incontrano appunto gli sgomberi o quando si sa qualcosa. Dicevo prima appunto che a seconda del quartiere i significati anche degli sgomberi, e intendo dire il perché degli sgomberi, può cambiare, perché in generale Milano ha tanti piani, non tutti sono pubblici, tutti questi piani fanno riferimento a una proiezione demografica di aumento della popolazione, e in questa popolazione il comune ne vuole selezionare alcuna, che è quella giovane e della fascia media diciamo, perché è questa la popolazione che Milano vuole per il suo futuro, citato nel 2030. Questa questione demografica sembra diciamo slegata, però in realtà sia pubblico che privato devono fare spazio a questi nuovi abitanti, quindi il pubblico si occupa di svuotare le proprie diciamo unità immobiliari per fare esperimenti, neanche troppo perché è un po' che sperimentano, comunque diciamo dei progetti di social housing, di co-housing a seconda delle zone, a seconda delle residenze. I privati si occupano di costruire quartieri dal niente o diciamo su aree industriali dismesse, eccetera eccetera, come Santa Giulia, sì, Santa Giulia, Logoredo, o anche lo scalo di Porta Romana, che appunto inizialmente servirà per le Olimpiadi, che sono nel 2026, le Olimpiadi invernali Milano Cortina, e dopo è già destinato a studentato di lusso sostanzialmente. Quindi in questa diciamo joint venture tra privato e pubblico l'obiettivo generale è di creare abitazioni disponibili per questa fascia giovane, ma comunque con un buon potere d'acquisto, ma non, cioè per permettergli di insediarsi a Milano e costruire qua le proprie carriere con un evidente ritorno per la città. Dico questa cosa del pubblico e del privato anche perché poi materialmente in alcuni quartieri si può notare questa, diciamo, collaborazione, se la vogliamo chiamare così. Un esempio che mi piace è il quartiere di San Siro. Ecco perché abbiamo sentito Nema Ezza prima, no? Grazie del consiglio. Perché il quartiere di San Siro, diciamo, vabbè, è molto citato per... vabbè, oltre che per lo stadio, per tutta una serie di cose che sono risaltate, diciamo, anche in termini di cronaca, non lo so, le bottigliate alla polizia in antisommossa che voleva bloccare un video. Però lì è proprio un posto dove queste, cioè sia il pubblico che il privato operano, diciamo, insieme, anche facendo cose diverse, perché è un quartiere molto grande. È conosciuto sì per lo stadio, c'ha, diciamo, un branding che riguarda tutto il contorno delle case popolari, che sono tantissime, e appunto dico riguarda il contorno perché riguarda le cascine riqualificate da delle cooperative sociali, gli esperimenti social housing tirati su dal nulla, lo stadio, il parco, i parchi vari che ci stanno intorno. Si parla sempre di queste cose per spingere ad acquistare a San Siro i privati, restringendo sempre di più, diciamo, la questione delle case popolari, perché anche nelle case popolari già le agenzie immobiliari da tempo stanno operando e vendono case acquistate dagli assegnatari che a loro volta avevano riscattato a dei prezzi tipo 3.000 euro al metro quadro, che per la città di Milano sono super competitivi, e quindi questa è la parte del privato nel fare ingresso, diciamo, anche nel patrimonio immobiliare pubblico. Poi c'è tutta la parte che invece riguarda diciamo la gestione di governo della città, quindi le istituzioni, se le vogliamo chiamare così, comune, regione, eccetera eccetera, che si occupano di, appunto, della parte della riqualificazione sociale, e quindi fanno cose tipo aprire degli sportelli che sono di censimento sostanzialmente delle abitazioni, però fungono da sportelli di ascolto per problemi abitativi, introducono delle, diciamo, degli esperimenti, in questo caso in senso stretto, di social housing, con appunto apporti di associazioni varie ed eventuali per i giovani, per accattarsi, diciamo, i giovani del quartiere. E poi hanno, vabbè, aumentato la sorveglianza privata dentro i cortili direttamente delle case popolari, hanno installato della videosorveglianza nuova, sperimentale, e poi hanno inventato anche questa cosa della portineria, diciamo, interinale, perché, vabbè, lo dico per chi non lo sapesse, di solito i portinai delle case popolari abitano nel caseggiato, cioè nel senso partecipano alla vita, diciamo, del quartiere. Questo veniva ritenuto troppo, diciamo, spalleggiante per gli occupanti abusivi e tutte le altre, boh, non lo so, tipicità da giornale che vengono descritte come il nemico del quartiere, e quindi si è scelto, cioè hanno provato la strada di averci dei portinai che entravano alle 8, uscivano alle 5 con orario di lavoro, però non vivevano lì. Lo cito perché è divertente. Comunque il primo di questi esperimenti si è concluso il giorno stesso del primo giorno di lavoro, perché, diciamo, l'abitato non ha percepito positivamente questo ingresso ostile nella loro vita, e quindi la portineria è stata scassinata e presa bottigliata, insomma vandalizzata, e quindi il tipo si è licenziato. Quindi Aler, non so, si inventerà, penso, qualcos'altro per provare a controllare e governare anche gli abitanti prima di poterli espellere. Sì, diciamo, la giusta reazione e opposizione alla riqualificazione e alla gentrificazione che avanza, ma soprattutto alla speculazione edilizia, perché poi quando andiamo a parlare di queste cose qui a Milano parliamo principalmente di speculazione edilizia. Un altro esempio che mi veniva in mente di quartieri che logicamente non hai citato, perché potremmo citarne a Iosa, io ti dicevo prima di Santa Giulia, un altro esempio di quartiere nato a nulla è Cascina Merlata, e probabilmente poi magari anche all'interno di questa serie di puntate faremo da qui fino a fine dicembre, cercheremo anche di interagire con un compagno che ha fatto un lavoro di ricerca su questo, perché aveva provato a fare un lavoro abbastanza interessante. Va bene, noi ti ringraziamo per quello che ci hai detto. San Siro è bella, ma non ci vivrei. Bella, ma non ci vivrai, invece, è un opuscolo, sì, che è uscito fuori. Se ci vuoi dare dei contatti, se vuoi aggiungere anche qualcosa, se ci vuoi dare anche dei contatti per poter reperire questo opuscolo, che di sicuro è molto interessante. Sì. Si chiama appunto Bella ma non ci vivrai, è un opuscolo che sì, parte dai progetti su Milano, dalle Olimpiadi a Milano 2030, più cose diciamo dei privati, boh, tutto quello di cui abbiamo parlato, adesso non mi dilungo, e consta anche di una serie di riflessioni appunto sulla riqualificazione, su delle cose tipo il welfare, come viene gestito a Milano, eccetera, eccetera, ma appunto è uscito, non è ancora stato presentato, ma se qualcuno lo volesse può scrivere a questa mail: piccioni a Milano, tutto attaccato, tutto minuscolo, chiocciola proton.me. Ok, quindi ricordiamo questa mail un po' complicata, no vabbè, a parte scherzi, piccioni a Milano, chiocciola proton.me, questo per avere dei contatti, per cercare di dare un'occhiata a questo opuscolo, Bella ma non ci vivrai. E niente, se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no noi ti ringraziamo. Insomma. No, se no vi tiro le pezze per sempre. Ok, no vabbè, ci tiriamo le pezze dopo a berci le birrette in via, dai. Allora niente, ringraziamo la compagna e la disponibilità della compagna. E ora andiamo avanti con un po' di musica, saltando intorno. House of Pain, Jump Around.